in primo piano. Buongiorno e benvenuti alla lettura dei giornali. Questa mattina sono due i grandi temi che caratterizzano le prime pagine dei maggiori giornali italiani. Il primo è la questione della nave dei disperati, che probabilmente si sta risolvendo, visto che sta per essere accolta in un porto italiano in Sicilia. E il secondo tema grosso della settimana è il vertice ONU sul razzismo che spacca i paesi occidentali. Tra i grandi giornali questa mattina vanno segnalati il Corriere della Sera e la Repubblica, che per la prima volta dopo due settimane non mettono alcuna notizia sul terremoto in Abruzzo in prima pagina. Evidentemente i giornali stanno piano piano passando ad altri argomenti. E vediamo un po' quali sono i grandi titoli delle prime pagine questa mattina. Su Repubblica l'apertura è dedicata a due grossi temi: sulla nave dei disperati, i nostri tre giorni d'inferno, e c'è un reportage a bordo del mercantile Pinar che sta arrivando in Italia. E il secondo grande titolo è il mondo spaccato sul razzismo. Alla conferenza ONU, no di USA e Italia, Ahmadinejad attacca Israele. Il Corriere della Sera, il vertice ONU sul razzismo spacca l'Occidente. Il secondo titolo più rilevante è il governo accusa Malta, regole violate, sì dell'Italia, accolta la nave degli immigrati. La Stampa invece ritorna sulla polemica politica legata al terremoto in Abruzzo e alle posizioni di Napolitano e Fini contro quelle di Berlusconi. Fini, avanti con le inchieste. Terremoto, il presidente della Camera, giusto accertare le colpe. Sintonia con Napolitano, il vescovo dell'Aquila, ma le indagini non durino decenni. Forte scossa di terremoto ieri in Piemonte. Altri giornali si dedicano a argomenti diversi. Ad esempio il Giornale di Milano fa una scelta completamente diversa. L'apertura è con una grande iniziativa, una presentazione di un'iniziativa dedicata a come fare affari con la borsa a prezzi di saldo. E il titolo, diciamo, giornalistico della giornata è invece «Ma adesso liberate la liberazione». Berlusconi pronto a celebrare il 25 aprile, la sinistra minaccia, resti a casa o saranno guai. Formigoni concede un'intervista al Giornale, idea bella ma è pericoloso, per alcuni la festa è una proprietà privata. Il Messaggero apre invece il Giornale con un titolo su le vicende del terremoto ancora in Abruzzo. Abruzzo si ricomincia dal lavoro, Fini sul sisma è giusto chiedere l'accertamento delle responsabilità. Migliaia di piccole e medie aziende vogliono rimettersi in moto, riaprono o riparano i danni. Il Sole 24 Ore del lunedì dedica l'apertura invece al fisco e soprattutto ai soldi che scappano. All'estero evasi 5 miliardi, false residenze di persone e società in cima alle violazioni. Sono triplicati rispetto al 2007 i redditi non dichiarati scovati dalla Guardia di Finanza. Il Secolo XIX di Genova, sarà accolta in Sicilia la nave dei disperati, è il titolo che apre il Giornale con a caratteri molto grandi. Allarme a bordo, fate presto, Frattini attacca Malta. Di taglio abbiamo sempre in prima pagina il caso di Via Poma, perché accusa il fidanzato di Simonetta, è un'intervista al Pubblico Ministero che seguì il caso. L'apertura dell'Unità con una foto di tutta pagina in prima pagina è dedicato alla nave dei fantasmi, questo è il titolo. La vergognosa odissea degli immigrati, Berlusconi costretto a cedere per il timore di essere travolto dal disastro umanitario, l'imbarcazione Pinar accolta in Sicilia. Va segnalata ovviamente la Gazzetta dello Sport, al lunedì calcistico, il titolo è dedicato al Milan, s'avanza il Milan, formidabile Inzaghi, tripletta e aggancia la Juve al secondo posto. Sulla Gazzetta dello Sport però compare anche un grosso titolo dedicato a una questione non sportiva, insulti a Balotelli, Moratti, avrei ritirato la squadra, Cobolli si scusa, cori ingiustificabili. Si tratta dei cori razzisti di sabato scorso allo Stadio Olimpico di Torino. Il primo articolo che mi sembra valga la pena oggi di leggere, anche perché dà una chiave interpretativa diciamo più ampia e diversa da quello che stiamo leggendo sui giornali, è dedicato all'Italia salva la nave dei disperati, è un articolo di Lucia Annunziata sulla Stampa in prima pagina, c'è un commento che dal titolo assai evocativo, chiamatela Exodus, e si tratta di un riferimento storico naturalmente con la nave dei profughi ebrei che giravano per il Mediterraneo negli anni subito dopo la guerra. Scrive Lucia Annunziata: si chiama Pinar, ma le onde del Mediterraneo ricordano una sua sorella di molti anni fa che vagava ugualmente senza meta, senza prodo, col suo carico di umanità a perdere, incastrata dalle logiche dei trattati internazionali nella marginalità della storia. Quella sorella si chiamava Exodus. Per chi è troppo giovane, ma anche per chi ha l'età del ricordo, vorrei richiamare qui quella memoria. L'Exodus salpò ai primi di luglio del 1947 da Porto Venere, una carretta del mare coperta di ruggine, un goffo battello che col nome di President Warfield era servito in Virginia, negli Stati Uniti, a portare turisti su e giù da per il Potomac. La comandava un giovane ebreo di 27 anni, era stata ristrutturata nel cantiere dell'Olivo a Porto Venere e si avviava verso la più grande impresa dell'immigrazione ebraica clandestina, trasportare dall'altra parte del Mediterraneo, stivati su quattro piani di cuccette, 4.515 profughi ebrei sopravvissuti all'Olocausto. Non era la prima volta e non fu l'ultima su quella rotta, ma il suo viaggio divenne il simbolo del diritto di un popolo a emigrare. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, scrive ancora Annunziata sulla Stampa, il Golfo della Spezia divenne uno dei luoghi di speranza per migliaia di ebrei europei, uomini, donne e bambini, che avevano conosciuto la persecuzione, lo sterminio e i lager. Nello Stato ebraico, la Spezia è chiamata ancora oggi Porta di Sion. Da quella nostra città partirono tra l'estate del 1945 e la primavera del 1948 oltre 23.000 ebrei. Ma la traversata non fu semplice. L'arrivo di profughi in Palestina era stato bloccato a un numero di 75.000 entrate in 5 anni, secondo gli accordi del dopoguerra che avrebbero dovuto fermare il conflitto arabo-palestinese. Lo Stato di Israele in quegli accordi non era previsto. La Gran Bretagna, che aveva il mandato per la Palestina, combatté in tutti i modi l'arrivo di profughi ebrei. La Pinar, conclude Lucia Annunziata sulla Stampa, non sarà forse mai famosa come la Exodus e non passerà alla storia. Ma il suo vagare in mare stretta tra ragioni di Stato e ragioni dell'umanità non è molto diverso. Allora gli italiani scelsero l'umanità, oggi fanno la stessa giusta scelta. Questi illegali di oggi, con la pelle nera, sono i nuovi ebrei che scappano dall'Olocausto nascosto dalla globalizzazione. Questa è Lucia Annunziata sulla Stampa, dedicato questo commento alla nave dei disperati. Il Corriere della Sera invece ha un commento in prima pagina su un altro tema rilevante della settimana di politica internazionale, ed è la conferenza di Ginevra sul razzismo, che sta aprendo divisioni e polemiche tra i governi occidentali e non. Chi è presente stavolta ha torto, è la chiara posizione del Corriere della Sera sulla conferenza sul razzismo di Ginevra. Scrive Pane Bianco: si apre oggi a Ginevra sotto i peggiori auspici la conferenza delle Nazioni Unite sul razzismo. Gli occidentali sono arrivati a questo appuntamento divisi. Gli Stati Uniti, Israele, il Canada, l'Australia e l'Italia hanno confermato che non parteciperanno, non essendoci garanzie che la conferenza, i cui lavori preparatori sono stati dominati dai paesi islamici, non si risolva anche questa volta, come accadde nella precedente conferenza di Durban nel 2001, in un atto di accusa contro Israele e contro l'Occidente. Olanda e Germania hanno dato l'ultimo momento forfè. La Gran Bretagna e la Francia invece hanno scelto di essere presenti, così come il Vaticano. Il presidente iraniano Ahmadinejad, già arrivato a Ginevra, continua Pane Bianco sul Corriere, è stato ricevuto con tutti gli onori dalle massime autorità elvetiche, il che ha suscitato una dura protesta di Israele, e sarà fra i primi a prendere la parola nella tribuna messagli a disposizione dall'ONU. Molte cose non vanno, evidentemente, se a una conferenza sul razzismo, che dovrebbe essere espressione dell'impegno delle Nazioni Unite in difesa dei diritti umani, può impunemente prendere la parola un signore che ritiene la Shoah una invenzione e presiede un regime che ha al proprio attivo l'assassinio di centinaia di oppositori politici. Questo era Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, con un commento, l'articolo di fondo dedicato alla conferenza di Ginevra sul razzismo. Altri temi sono ben presenti oggi sui giornali, ma vorrei segnalarvi una notizia che non ha avuto ieri sera nei telegiornali e anche stanotte molto eco, perché è avvenuto proprio stanotte, ed è un lutto per il mondo della cultura. È morto uno dei più grandi scrittori contemporanei, certamente, un protagonista della vita culturale letteraria mondiale. Stiamo parlando di James Ballard, uno scrittore inglese nato a Shanghai, che è diventato famosissimo per le sue per i suoi romanzi, i suoi scritti di fantascienza, ma era un uso della fantascienza finalizzato a comprendere la realtà e il futuro. Alcuni giornali, il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, hanno articoli abbastanza ampi sulla figura di Ballard, anche se altri non hanno fatto in tempo a dare la notizia. Vi segnalo questo articolo sulla cultura di Repubblica di Loredana Liperini, che fa una veloce storia di Ballard. J.C. Ballard, addio al maestro di Crash. Settembre 2005, James Graham Ballard accetta di essere intervistato da Evelyn Finker per Die Zeit. Gli viene chiesto naturalmente un parallelo tra le apocalissi naturali, in quel caso l'uragano Katrina, e le catastrofi che avevano raccontato nei suoi libri. A cominciare dalla primissima, quel vento dal nulla pubblicato nel 1961, dove il vento nasce inspiegabilmente, cresce, si alimenta in ogni parte del mondo e distrugge tutto quel che trova sul suo cammino. Ballard risponde: «Tutti i miei libri affrontano con lo stesso problema. La civiltà umana è come la crosta di lava di un vulcano. Sembra solida, ma se la calpesti trovi il fuoco». È la definizione migliore, naturalmente, che libera l'opera di Ballard dall'annoso e noioso problema dello scaffale, che probabilmente si riproporrà con maggior forza ora, dopo la morte dello scrittore, avvenuta ieri a 78 anni, al termine di una lunga malattia annunciata nella sua autobiografia I miracoli della vita. Cos'era dunque Ballard, scrive la Repubblica? Era certo l'autore di fantascienza che già nel secondo libro Il mondo sommerso affiancava la narrazione di una distruzione esterna, questa volta per lo scioglimento delle calotte polari, all'indagine dentro l'animo umano. Era il 1962, l'anno in cui uscì sulla rivista New Worlds il suo articolo Which Way to Inner Space, che avrebbe aperto il varco al cyberpunk. Basta con lo spazio esterno, non più gloriose astronavi che sfrecciano nelle galassie, ma la discesa nella psiche degli uomini e nel mondo, nel modo in cui la medesima interagisce con i mass media. Innesto che si sarebbe rivelato con forza nello straordinario La mostra delle atrocità o In condominio, che esplora la regressione alla barbarie nel microcosmo di un grattacielo. E poi certo in Crash, forse la sua opera più famosa, di sicuro quello che Ballard considerava la più importante. Eppure Ballard, scrive ancora La Repubblica, in questo titolo dedicato alla sua morte, Ballard non era soltanto un autore di fantascienza. Intervistato da Valerio Evangelisti, parlava di quell'esperienza al passato. Molti anni fa scrivevo fantascienza, ma non ho scritto fantascienza per 30 anni, o forse più. Non mi vedo più come uno scrittore di fantascienza. Del resto, aggiungeva, la fantascienza non aveva più senso. È morto il giorno in cui Armstrong ha messo piede sulla Luna, nel 1969. Penso che allora si sia messa la parola fine, da allora molti dei sogni della fantascienza si sono avverati. I trapianti, la manipolazione genetica, vuoi che tua figlia assomigli alla Lollobrigida? Oggi è possibile. Ecco, questo era James Ballard, un grandissimo scrittore. C'è anche un cameo di David Cronenberg, che è un regista famosissimo canadese, che ha lavorato con Ballard e che riconosce il modo con cui hanno costruito assieme i film. In particolare Cronenberg è il regista di un film dedicato al libro Crash, e così lo racconta: l'ho conosciuto nel periodo in cui stavamo facendo Crash e a Cannes per l'uscita del film. Poi ci siamo tenuti sempre in contatto, era un uomo dolce, divertente, un perfetto gentiluomo inglese. Era il tipico caso in cui la differenza tra l'opera e il suo creatore può essere enorme. Non avrei mai pensato che scrivesse quel tipo di libri. Prima di Crash non avevo mai letto nulla di suo, farlo fu una rivelazione scioccante, da allora ho sempre letto tutto. A Cannes mi diceva sempre: è molto eccitante qui, perché noi scrittori stiamo sempre da soli a casa a scrivere. Questo è il ricordo di Ballard, un grandissimo scrittore di fantascienza morto stanotte. Ci sono alcuni temi economici che oggi vale la pena segnalare sui giornali, anche perché diventeranno importanti nel corso della settimana. Ad esempio il ministro Tremonti ieri sera ha annunciato che la crisi economica, secondo lui, si avvia verso la conclusione, perché sarebbe finito l'incubo degli incubi. Fermata la caduta, nessuno crede più al crollo della finanza globale, e questo è un tema questa mattina citato sui giornali. In più c'è certamente il caso dell'accordo americano della Fiat, con la possibilità che il lingotto prenda larga parte del capitale della casa automobilistica Chrysler. Sul comportamento, diciamo, delle imprese, ma anche dei sindacati in America e in Italia, c'è un'analisi sul Corriere della Sera di Dario Di Vico, del vice direttore Dario Di Vico. Il titolo è emblematico: Sindacati, percorsi invertiti tra Detroit e Pomigliano. Ecco che cosa scrive Di Vico legato alla vicenda della Chrysler. Il mondo dell'industria e dei sindacati sembra destinato a camminare alla rovescia. Per effetto della grande crisi si gioca a continenti invertiti. Nella roccaforte del liberismo, nella patria degli animal spirits capitalistici, il sindacato dell'auto si dichiara pronto a diventare azionista di riferimento di una delle big three, la Chrysler, in cambio di dolorosi tagli alle pensioni, alla sanità e agli stipendi. Scrive Di Vico sul Corriere della Sera. L'America che lapida i Madoff e i Wagoner, super finanzieri senza scrupoli e top manager senza idee, si affida invece ai Gettelfinger, pragmatici leader sindacali, che hanno fatto accordi anche negli anni di George Bush e che oggi si rivelano decisivi per salvare il patto di cittadinanza che lega la società americana e per onorare le promesse elettorali di Barack Obama. Nella vecchia Europa, scrive Di Vico, invece il sindacalismo si agita tanto senza concludere niente. Tiene la piazza con manifestazioni imponenti che si rivelano frutto però di una straordinaria forza organizzativa, più che di una reale sintonia con le ansie e le aspettative più profonde del mondo del lavoro. Il caso limite è quello francese, dove la deriva populista sembra aver preso la mano alle forze sindacali. I sequestri di manager rischiano di diventare un'abituale forma di lotta contro la crisi e nei servizi sono rispuntate agitazioni in stile gatto selvaggio, come l'improvvisa interruzione della fornitura di luce e gas alle famiglie, decisa sabato scorso dai dipendenti dell'EDF e della Gaz de France per sostenere una richiesta di aumenti degli stipendi. Dentro le confederazioni sindacali italiane la confusione è grande quanto il cielo, scrive ancora Di Vico sul Corriere. Come si può desumere da un informato articolo di Bruno Golini pubblicato sull'Unità, in casa CGIL è tempo di manovre pre-congressuali e il posizionamento dei suoi dirigenti sembra obbedire più a logiche di potere e di ricerca di alleanze interne che alla necessità di dare chiare indicazioni alla base. La conseguenza è che i segnali che arrivano in fabbrica e negli altri luoghi di lavoro sono assai diversi tra loro. Non si firma con la Confindustria l'accordo quadro che, dopo anni di incredibili rinvii, tenta di rinnovare e decentrare le relazioni industriali e legarle agli incrementi di produttività. Si minaccia esplicitamente di trasformare Pomigliano in una polveriera da rendere necessario addirittura l'intervento dell'esercito se la Fiat dovesse ristrutturare lo stabilimento. Poi però, per evitare di restare spiazzati, si finge di guardare con attenzione a ciò che succede a Detroit e al modello Chrysler e si studiano caute aperture sull'azionariato dei dipendenti. Il risultato prodotto da tutte queste prese di posizione, scrive infine Di Vico sul Corriere, contraddittorie tra loro queste prese di posizione, è la sovrapposizione delle parole d'ordine, un sindacalismo alla carte dove ognuno trova il suo piatto preferito, ma i lavoratori restano a digiuno. Sul Messaggero, a commento invece di quell'altro tema di cui vi anticipavo i titoli, la fine degli incubi, il Tremonti che forse rivela una base di ottimismo per il futuro, c'è un'intervista di commento di Pierluigi Bersani, ex ministro dell'Industria. Sul Messaggero titola: Bersani, dalla crisi si esce riducendo le diseguaglianze. Stavolta dalla crisi, dice Bersani, si esce solo riducendo le diseguaglianze. Per Luigi Bersani chiede al governo di cambiare passo, ma lo chiede anche alla sua parte politica. A sinistra è finito il tempo della leggerezza comunicativa e tornano in campo parole pesanti come produzione, redistribuzione, welfare. In questi anni, sostiene l'esponente del PD, sono cresciute in Italia le ricchezze e le povertà, le distanze tra nord e sud, i vincoli alla mobilità sociale. Nella ricomposizione di queste fratture, spiega, c'è la riserva di energia per una nuova crescita del paese. Anche la destra, spiega ancora Bersani, sarà costretta a scegliere, non potrà più fare entrambe le parti in una commedia, puntare cioè ora sulle libertà, ora sulle paure. Sul Sole 24 Ore l'apertura è dedicata, come vi avevo citato nel titolo prima, alla questione dell'evasione fiscale. Ci sono dei dati ancora clamorosi: all'estero evasi 5 miliardi. triplica il bottino della lotta all'evasione internazionale. Nel 2008 la Guardia di Finanza ha intercettato oltre 5,3 miliardi di redditi imponibili non dichiarati contro il 1,9 miliardi scovati l'anno precedente. Finte residenze in paesi a fiscalità agevolata, esterovestizione di società e stabili organizzazioni fasulle sono le tre modalità più utilizzate dai contribuenti per sfuggire al fisco nostrano. In questo articolo di prima pagina ancora si dice il Sole 24 Ore: nell'ultimo triennio il bottino complessivo della Guardia di Finanza totalizza addirittura oltre 10 miliardi. Se a questi importi si aggiungono gli incassi delle fiamme gialle nei controlli transfrontalieri sui movimenti di capitale, nelle attività di antiriciclaggio e di contrasto ai reati economico-finanziari, molti dei quali riconducibili a operazioni internazionali, le somme in gioco arrivano a sfiorare i 15 miliardi di euro. Importi enormi che danno l'idea di come anche per l'Italia, scrive il 24 Ore, le ricchezze oltre confine ammontino a centinaia di miliardi di euro e che spiegano sia le preoccupazioni di tutti gli stati sul movimento occulto di capitali, sia le iniziative internazionali contro i paradisi fiscali e per favorire il rientro in patria delle somme nascoste all'estero. Questo era il 24 Ore. Vi segnalo ancora alcuni temi sui giornali di questa mattina, in particolare sull'Unità c'è la notizia che la bimba star del film Millionaire, Slumdog Millionaire, che ha vinto anche molti premi Oscar quest'anno, sarebbe addirittura in vendita a una bambina indiana. Il padre sotto accusa, dice, si difende, è falso. L'articolo sull'Unità di Gabriel Bertinetto, che dice: la vita reale può essere peggiore della finzione cinematografica. I protagonisti bambini del pluripremiato film indiano Slumdog Millionaire subivano lo sfruttamento crudele di adulti criminali che approfittavano cinicamente delle loro condizioni di orfani e emarginati. Ma Rubina, la piccola attrice di strada, nella vita reale non è sola. Una famiglia ce l'ha, benché povera. Solo che per denaro il padre è disposto a disfarsene, scrive ancora Gabriele Bertinetto. Lo ha scoperto una squadra di giornalisti investigativi del quotidiano inglese News of the World. Avendo saputo che una ricca coppia di un imprecisato paese medio orientale aveva manifestato il desiderio di adottare Rubina, dicendosi disposta a compensare i genitori pur di ottenerla, i reporter si sono spacciati per emissari di un nababbo degli Emirati Arabi, pronto a sborsare un'ingente somma per portarsi a casa la bambina. I sedicenti intermediari vanno a Mumbai e fissano un appuntamento con Rafik, il padre di Rubina. Lui arriva con la figlia, il fratello Rajan, che gli fa da interprete a un fiuto degli affari a prova di scrupoli. L'incontro avviene in una lussuosissima stanza dell'hotel Lila Kempinski, il cui bagno è più grande di tutta casa mia, commenta estasiata Rubina, la quale non ha la più pallida idea delle ragioni per cui si trova lì, ma è felicissima di nuotare in mezzo a tanto sfarzo. Mangia con gusto i dolciumi che le vengono offerte, mentre Rafik e Rajan vengono al sodo. Chissà se la notizia è vera, comunque è una notizia interessante sui giornali. L'ultima notizia che vi segnalo, perché ne vale la pena, a volte ritornano, su Repubblica in prima pagina c'è Filippo Caceccarelli che dice che sta tornando il vecchio architetto Panseca di Craxi, e l'architetto di Craxi spogliò Silvio e Mara. Ci sono delle fotografie con il presidente del Consiglio e Mara Carfagna nudi, ovviamente si tratta di un'opera d'arte dell'architetto, è una cosa che torna dagli anni 80.